Capitolo 20. Prima cura di Edmund, la mattina seguente, fu di incontrare il padre da solo e dargli il completo resoconto di come si era svolto tutto il progetto della recita, difendendo la parte personale che vi aveva preso solamente fin dove ora, raggiunto un maggiore equilibrio, sentiva che i suoi motivi lo meritavano e riconoscendo con perfetta schiettezza che le sue concessioni erano state motivate da un punto di vista tanto parziale da rendere assai dubbio il discernimento con cui ne aveva valutato l'opportunità. E mentre discolpava se stesso, si preoccupava di non dire nulla che suonasse biasimo per gli altri, ma fra loro ve n'era una la cui condotta gli poteva menzionare senza necessità né di difenderla né di scusarla. «Siamo stati tutti più o meno da biasimare», disse, «ciascuno di noi, eccettuata Fanny. Fanny è l'unica che ha giudicato rettamente dal principio alla fine, l'unica che sia stata coerente. Il suo parere è stato contrario dal primo all'ultimo momento. Non ha mai cessato di considerare quello che era dovuto a lei, signore. Troverà che Fanny in tutto si è comportata come lei poteva desiderare». Sir Thomas vedeva quanto quel dato progetto era stato improprio in quella data compagnia, in quel dato momento, tanto vivamente quanto suo figlio aveva immaginato, anzi risentiva la cosa troppo profondamente per esprimerlo a parole. Dopo aver stretto la mano di Edmund, prese la risoluzione di sforzarsi di cancellare la spiacevole impressione, di dimenticare fino a che punto fosse stato dimenticato egli stesso, cancellare e dimenticare il più presto possibile non appena la casa fosse stata ripulita da ogni oggetto che lo costringeva a ricordare l'accaduto e fosse stata restituita alla condizione primitiva. Non si imbarcò in nessuna rimostranza con gli altri figlioli. Era più propenso a convincersi che sentissero l'errore commesso che a correre il rischio di un'indagine. La riprovazione implicita nell'immediata conclusione di tutta la faccenda lo spazzar via tutti i preparativi. Non doveva essere sufficiente. Vi era tuttavia una persona in casa alla quale non poteva accontentarsi di lasciar semplicemente intuire i suoi sentimenti solo col suo modo di agire. Non seppe perciò trattenersi dall'accennare a Mrs. Norris di aver sperato che i consigli di lei si sarebbero fatti sentire per opporsi a quello che il buon senso aveva senz'altro disapprovato. I ragazzi erano stati assai sconsiderati nel concepire quel progetto. Avrebbero dovuto essere in grado di decidere per proprio conto, più saviamente, ma erano giovani e, tranne Edmund, di indole instabile, a quanto egli credeva. Perciò la quiescenza di lei alle loro incaute decisioni e il suo incoraggiamento ai loro svaghi pericolosi lo sorprendeva ancor di più del fatto che fossero state prese quelle decisioni e ricercati quegli svaghi. Mrs. Norris rimase un po' confusa e quasi ridotta a silenzio, cosa che non le era mai successa in tutta la sua vita. Si vergognava di dover ammettere che non aveva visto nulla di sconveniente, in quanto per Sir Thomas lo era invece e in modo così lampante. D'altra parte, per nulla al mondo avrebbe voluto ammettere che la sua influenza era insufficiente e che se mai avesse parlato lo avrebbe fatto. Unica sua risorsa era abbandonare quell'argomento appena possibile e far deviare il flusso delle idee di Sir Thomas in una più felice direzione. Aveva una gran quantità di cose da far presenti a propria lode per quanto riguardava l'attenzione esercitata nell'interesse per il benessere della famiglia. Elencò la molta fatica spesa e i molti sacrifici compiuti sotto forma di sollecite camminate fra due case, di improvvisi abbandoni del proprio diletto focolare, rammentò nei minimi particolari i numerosi eccellenti suggerimenti da lei impartiti a Lady Bertram e a Edmund, suggerimenti ispirati a sani principi di diffidenza e di economia, suggerimenti grazie ai quali era sempre stato realizzato un notevole risparmio e più di un infido servitore era stato colto sul fatto. Ma il punto di forza era Sotherton, la sua più valida difesa, la sua maggior gloria stavano nell'aver stretta la relazione con i Rushworth. Qui era inattaccabile. Attribuiva a se stessa tutto il merito di aver indirizzato l'ammirazione di Mr. Rushworth per Maria alla felice attuale conclusione. «Se non mi fossi data da fare, disse, e non mi fossi fatta presentare alla madre di lui, e poi non fossi riuscita a indurre mia sorella a farle la prima visita, sono certa, come lo sono di essere seduta qui, che la cosa non sarebbe andata in porto, poiché Mr. Rushworth è quel genere di modesto, amabile giovanotto che ha bisogno di moltissimo incoraggiamento, e vi erano abbastanza ragazze pronte a dargli la caccia se non avessimo preso l'iniziativa, ma io non trascurai nessuna occasione. Ero pronta a muovere cielo e terra per persuadere mia sorella e alla fine l'ho persuasa. Lei sa a che distanza si trova Southerton. Era nel cuore dell'inverno e le strade erano quasi impraticabili, ma io la persuasi. So quanto sia grande, giustamente grande, la sua influenza su Lady Bertram e i suoi figlioli, e proprio per questo sono tanto amareggiato che non sia stata. Mio caro Sir Thomas, se lei avesse visto le condizioni delle strade in quel giorno, pensai che non saremmo mai riusciti a percorrerle fino in fondo, benché avessimo i quattro cavalli, naturalmente, e il povero vecchio cocchiere avesse acconsentito a servirci. Grazie al suo grande amore per la famiglia, alla sua grande bontà, benché quasi non riuscisse a sedere a cassetta a motivo dei reumatismi che gli ho curato fin dal giorno di San Michele. L'ho guarito finalmente, ma è stato molto male tutto l'inverno e quella era una così spaventosa giornata che non potei trattenermi dal salire in camera sua, prima di metterci in viaggio e di consigliarlo a non avventurarsi. Si stava mettendo la parrucca, io gli dissi: Cocchiere, fareste molto meglio a non mettermi in viaggio. La vostra padrona ed io saremo al sicuro. Sapete che Steven e Charles hanno fatto così spesso da postiglioni che, ne sono sicura, con loro non avremo nulla da temere. Ma mi accorsi ben presto che le mie parole erano inutili. Era deciso di andare e io, siccome detesto essere molesta e invadente, non dissi altro. Ma il cuore mi doleva. Per lui, a ogni scossone della carrozza. E quando entrammo nei viottoli, tutti i buche nei dintorni di Stoke, dove fra brina e neve su un fondo di pietre fu peggio di quanto lei possa immaginare, mi sentii proprio straziata per lui. E poi quei poveri cavalli, vedere come si tendevano nello sforzo. Lei sa come sono sensibile quando si tratta di cavalli. E quando giungemmo a piedi a Sancroft Hill, cosa pensa che feci? Riderà di me, ma scesi e camminai. Proprio così lo feci. Ciò forse non ha risparmiato loro un granché, ma è stato pur sempre qualcosa, e non potevo sopportare di rimanere seduta comodamente ed essere trainata a spese di quei nobili, nobili animali. Mi buscai uno spaventoso raffreddore, ma di questo non mi curai. Il mio scopo fu raggiunto nella visita. Spero che continueremo a trovare che la relazione merita tutti i disturbi che lei si è presa per stringerla. Non vi è nulla di molto notevole nei modi di Mr. Rushworth, ma ieri sera mi è piaciuta quella che a quanto pare è la sua opinione su un certo argomento, la sua decisa preferenza per una tranquilla riunione di famiglia contro il trambusto e la confusione di una recita. Il suo modo di sentire mi è sembrato molto appropriato. Proprio, e più lo conoscerà, più le piacerà. Non è un tipo brillante, ma ha mille buone qualità ed è così ben disposto a considerarla con deferenza che gli altri mi prendono in giro perché pensano che sia opera mia. Parola mia, Mrs. Norris, mi diceva l'altro giorno Mrs. Grant, se Mr. Rushworth fosse figlio suo, non potrebbe avere Sir Thomas in maggior considerazione. Sviato dall'elusività della cognata, disarmato dalla sua adulazione, Sir Thomas rinunciò a spingere oltre la discussione e fu costretto ad ammettere che a volte, quando l'immediato piacere di chi le era caro era in gioco, l'affetto in lei sopraffaceva il buon senso. Per il baronetto quella fu una mattinata piena di occupazioni. La conversazione con Edmund e poi con Mrs. Norris gliene prese solo una piccola parte. Doveva reinserirsi in tutti gli schemi abituali della vita di Mansfield, intrattenersi con l'amministratore, con il fattore, esaminare, calcolare e tra un affare e l'altro entrare nelle sue scuderie, passeggiare nei suoi giardini e negli alberetti più vicini, ma attivo e metodico com'era, non solo aveva fatto tutto questo prima di rioccupare il suo posto, il posto del padrone di casa, a capotavola. Aveva anche messo a lavoro il falegname perché eliminasse tutte le sovrastrutture ultimamente aggiunte nella sua sala da biliardo e licenziato il pittore di 6 scenari, così per tempo da giustificare la gradevole certezza che egli ormai si trovava almeno a Northampton. Il pittore se n'era andato dopo aver avuto solo il tempo di rovinare il pavimento di una stanza, mettere fuori uso le spugne del cocchiere e lasciare oziosi e di pessimo umore 5 dei secondi camerieri. Ma Sir Thomas sperava che un altro giorno o due sarebbero bastati per cancellare ogni visibile ricordo di quanto era avvenuto, compresa la distruzione di ogni copia non rilegata di Lover's Vows, ancora presente in casa, visto che egli gettava nel fuoco tutte quelle che gli cadevano sott'occhio. Mr. Yates ora incominciava a rendersi conto delle intenzioni di Sir Thomas. anche se al pari di prima era ben lungi dal comprenderne i motivi originari. Lui e il suo amico erano stati fuori a caccia quasi per tutta la mattinata e Tom aveva colto l'occasione per spiegare, facendo le debite scuse per il peculiare atteggiamento del padre, insieme con quel che se ne dovevano aspettare. Che Mister Yates se ne dolesse amaramente, si può ben immaginare. Nutrire per la seconda volta una speranza e per la seconda volta restare deluso era il colmo della malasorte, e la sua indignazione fu tale che se non fosse stato per delicatezza verso l'amico e verso la sorella minore dell'amico, avrebbe certamente fatto le più energiche rimostranze al baronetto sull'assurdità del suo modo di procedere e avrebbe cercato, discutendo con lui, di indurlo a un comportamento più ragionevole. Questo era il suo fermo proposito mentre si trovava nei boschi di Mansfield e su tutta la via del ritorno, ma vi era qualcosa in Sir Thomas, quando sedettero intorno alla stessa tavola, che indusse Mister Yates a convincersi che era più consigliabile lasciarlo fare a modo suo, e pur risentendone tutta la follia, non opporvisi. Aveva già conosciuto molti padri sgradevoli prima d'allora e spesso era stato colpito dagli inconvenienti che essi cagionavano, ma mai in tutto il corso della sua vita ne aveva incontrato uno come Sir Thomas, così ligio, a una incomprensibile etica, così infamemente tirannico. Era un uomo che si riusciva a sopportare solamente per amore dei suoi figlioli e che poteva ringraziare la sua bella figlia Giulia se Mr. Yates consentiva trattenersi ancora alcuni giorni sotto il suo tetto. Quella sera trascorse in un'atmosfera di calma esteriore, benché quasi ogni mente fosse sottosopra e la musica che Sir Thomas chiese alle figlie di eseguire servisse a mascherare la mancanza di vera armonia. Maria era in grande agitazione. Per lei era ormai della più grande importanza che Crawford non perdesse tempo, che si dichiarasse, ed era turbata nel vedere che un giorno intero era passato senza che accadesse nulla. Per tutta la mattinata si era aspettata di vederlo comparire, per tutta la serata lo aveva atteso e stava ancora attendendolo. Il giorno prima, Mr. Rushworth era andato via per tempo per portare a Soverton la grande notizia ed essa aveva ardentemente auspicato quel chiarimento immediato che gli avrebbe evitato una volta per tutte il disturbo di ritornare a Mansfield. Ma dalla canonica non si era fatto vivo nessuno, né erano giunti messaggi all'infuori di un cordiale biglietto di congratulazioni e di richiesta di notizie inviato da Mrs. Grant a Lady Bertram. Era il primo giorno, dopo molte e molte settimane, in cui le due famiglie erano completamente separate. Non erano mai trascorse 24 ore dall'inizio di agosto senza che in un modo o nell'altro si trovassero insieme. Fu un giorno triste, pieno di ansietà. E l'indomani non fu certo meno penoso, anche se apportò pene di genere diverso. Alcuni istanti di gioia febbrile furono seguiti per Maria da ore di acuta sofferenza. Harry Crawford era nuovamente al park. Vi giunse col dottor Grant, ansioso di porgere i suoi rispetti a Sir Thomas, e a un'ora alquanto mattutina entrambi furono introdotti nella saletta della prima colazione, dove si trovava riunita la maggior parte della famiglia. Sir Thomas comparve ben presto e Maria, con gioia e agitazione, vide presentare al padre l'uomo che amava. Le sue sensazioni erano indefinibili e tali furono anche alcuni istanti più tardi, quando udì Harry Crawford, che era seduto tra lei e Tom, chiedere a quest'ultimo a bassa voce se vi erano speranze di riprendere la recita dopo la presente felice interruzione, con una cortese occhiata verso Sir Thomas. Poiché in tal caso prendeva l'impegno di tornare a Mansfield in qualsiasi momento gli altri chiedessero, era costretto a partire immediatamente, dovendo incontrare senza indugio lo zio a Bath, ma se vi era una qualche prospettiva di riprendere l'Havers Vows, si considerava definitivamente impegnato e avrebbe accantonato qualsiasi altra faccenda. Anzi, avrebbe subito posto allo zio l'assoluta condizione di essere lasciato libero di raggiungerli in qualsiasi momento avessero bisogno di lui. La recita non doveva naufragare a motivo della sua assenza. Da Bath, Londra, York, dovunque io mi trovi in Inghilterra, disse, vi raggiungerò un'ora dopo aver ricevuto il vostro preavviso. Fortunatamente fu Tom a replicare, e non sua sorella. Egli poté dire immediatamente, con piena disinvoltura, mi rincresce che lei se ne vada, ma in quanto alla nostra recita non se ne parla più, è tutto completamente finito. Gettando un'occhiata significativa verso il padre, Il pittore è stato licenziato ieri e domani ben poco del teatro resterà in piedi. Ho saputo fin dal primo momento quello che sarebbe seguito. È fuori stagione per Basta, non vi troverà nessuno. È su per giù la stagione in cui mio zio è solito andarci. E quando pensa di partire? Forse arriverò fino a Bembury oggi stesso. Di quali scuderie fa uso Basta? Fu la domanda seguente. E mentre questo particolare veniva discusso, Maria, alla quale non difettavano né l'orgoglio né la risolutezza, si preparava a prendere parte alla discussione con calma. Crawford si rivolse a lei di lì a poco, ripetendo gran parte di quanto aveva già detto, solamente con espressione più dolce e parole di più vivo rammarico. Ma cosa valevano quella sua espressione e quel suo rammarico? Egli se ne andava, e ammesso che non se ne andasse spontaneamente, aveva evidentemente l'intenzione di starsene lontano, poiché all'infuori di quelli che potevano essere i suoi obblighi verso lo zio, i suoi impegni personali erano tutti liberamente presi. Aveva un bel parlare di necessità, lei sapeva quale fosse la sua indipendenza. La mano che si era premuta sul cuore in quel modo, ora la mano e il cuore erano ugualmente indifferenti, passivi. La sua fierezza la sosteneva, ma lo strazio interiore era grande. Non ebbe da sopportare a lungo la ribellione che suscitava in lei l'ascoltare parole che le azioni smentivano, o da comprimere il tumulto dei sentimenti, poiché lo scambio di convenevoli distolse ben presto da lei l'attenzione di Crawford. E quella visita di congedo, quale ora si palesava apertamente, ebbe ben presto fine. Ecco, se n'era andato. Egli le aveva sfiorato la mano per l'ultima volta. Le aveva fatto il suo inchino nell'atto di prendere commiato e lei poteva ricercare subito tutte le consolazioni della solitudine. Harry Crawford se n'era andato da Mansfield Park e fra poche ore se ne sarebbe andato dalla canonica e ciò poneva fine a tutte le speranze che la sua egoistica vanità aveva alimentato in Maria e Giulia Bertram. Giulia poteva rallegrarsi di quella partenza. La presenza di Crawford incominciava a diventarle odiosa e, purché Maria non riuscisse a conquistarlo, si era abbastanza ripresa da rinunciare a qualsiasi altra vendetta. Non desiderava che all'umiliazione dell'abbandono si aggiungesse lo scandalo. Una volta che Harry Crawford fosse partito, poteva perfino compiangere la sorella. Anche Fanny si rallegrò, ma con sentimenti meno ambigui. Sentì parlare a pranzo della partenza di Crawford e la giudicò una vera benedizione. Tutti gli altri la commentarono con rimpianto e i meriti di lui furono sentitamente e variamente proclamati. Edmund si espresse con la sincerità di una stima troppo parziale, sua madre limitandosi a ripetere quanto gli altri avevano detto in altre occasioni. Quanto a Mrs. Norris, incominciò a guardarsi intorno e a chiedersi come mai, visto che Mr. Crawford si era messo a far la corte a Giulia, la cosa fosse finita in nulla. Quasi temeva di non averlo abbastanza incoraggiato. Ma con tante persone di cui prendersi cura, com'era possibile, perfino con la sua solerzia, tenere il passo con quanto avrebbe voluto fare? Dopo un paio di giorni anche Mr. Yates se ne andò. Della sua partenza Sir Thomas sentiva il più vivo desiderio. Desiderava starsene solo con la famiglia e anche la presenza di un estraneo più desiderabile di Mr. Yates sarebbe stata molesta. Ma quella di lui, inconsistente, pieno di sé, ozioso e spendaccione, gli era insopportabile da tutti i punti di vista. Di per sé era fastidioso, ma come amico di Tom e ammiratore di Giulia diventava oltremodo sgradevole. A Sir Thomas non era importato nulla che Mr. Crawford partisse o meno, ma i suoi auguri di buon viaggio a Mr. Yates, mentre lo accompagnava verso la porta d'ingresso, furono fatti con genuina soddisfazione. Mr. Yates era rimasto abbastanza a lungo per assistere alla distruzione di tutti i preparativi teatrali fatti a Mansfield, alla rimozione di ogni cosa che si riferisse alla recita. Lasciò la casa all'austera quiete che le era propria. E Sir Thomas sperò, vedendolo uscirne, di essersi liberato del peggiore artefice del progetto teatrale, l'ultimo che dovesse mai rammentargli nell'esistenza. Mrs. Norris si diede da fare per rimuovere dalla vista del cognato un articolo che avrebbe potuto riaccenderne il malcontento. Il sipario, alla confezione del quale aveva presieduto con tanto talento e tanto successo, se ne partì con lei verso la sua casetta dove, per combinazione, c'era gran bisogno di panno verde.